in questo giro tondo d'anime. Chi si volta è perso e resta qua. Lo so per certo, amico, mi son voltata anch'io. Per raggiungerti ho dovuto correre. Ma più mi guardo in giro e vedo che c'è un mondo che va avanti anche se tu non ci sei più. Se tu non ci sei più. E dimmi, perché in questo giro tondo d'anime non c'è, no, un posto per scrollarsi via di dosso quello che c'è stato detto e quello che oramai si sa. Allora sai che c'è, c'è. Che prendo un treno che va a paradiso città e vi saluto a tutti e salto su. Prendo il treno e non ci penso più. Un viaggio ha senso solo senza ritorno se non in volo, senza fermo. Paradiso città.